Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi trasmettiamo dal Salone del Libro di Torino. Siamo al Padiglione 2, stand L161. Io sono particolarmente felice di essere qui con voi a Torino, che è la mia città. Siete venuti in tanti a trovarci. Questo sicuramente è un segno di grande affetto. Ci abbracceremo dopo. Ma confessatemelo, oltre alla passione per Radio 24 e alla simpatia nei miei confronti, che mi lusinga, c'è dell'altro, c'è di più. E qui infatti con me c'è Harry De Luca. Wow! Buongiorno. Buongiorno Harry. Io voglio dare subito però la parola a Paolo Mieli, che è qui con noi, è un altro motivo di grande, no, felicità, che è venuto a trovare Harry De Luca e così ha trovato anche un po' essere benessere. Grazie. Grazie, ma più che a trovare sono venuto a rendere omaggio a Harry De Luca, che non mi fa velo all'appartenenza, nel senso che io presiedo un altro gruppo editoriale, quello della Rizzoli, l'RCS, ed essendo lui un autore fuori dal mio gruppo editoriale, posso permettermi di dirlo senza ombra di autopubblicità, che è il più grande scrittore italiano. La persona che state per ascoltare, voi la conoscete tutti, però per chi non abbia ancora letto i suoi libri, è in assoluto, diciamo, fra i 3-4 più grandi scrittori italiani. È una persona che cura non solo i contenuti, ma la scrittura, la maniacalità dei termini, dell'uso delle parole, in maniera del tutto particolare. Un autentico genio, e quindi state attenti a ogni parola di quello che dice, che è una parola ben spesa. Auguri a Harry De Luca e sono contento di rendergli pubblicamente questo omaggio. Grazie. Grazie a lei, grazie. Un applauso che arriva dal Salone di Torino. Questo applauso così lo sfruttiamo anche un po' per presentare Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, che è qui in studio con me, ed Enrico Camanni, alpinista e scrittore. Benvenuto anche a lui. 800 24 00 24, il nostro numero verde naturalmente è attivo, anche se siamo al Salone di Torino, e quindi intervenite. La trasmissione di oggi, che avevamo già annunciato in onda nel nostro profilo Facebook, ruota intorno ad una parola che ha tante possibili letture e tanti sinonimi: arrampicata, possiamo dire anche scalata, ascesa. Ci sono sicuramente dei passaggi della vita che assomigliano a vere e proprie scalate. C'è chi vive la vita come se fosse una lunga e interminabile scalata. Scalare significa muoversi verso l'alto, là in alto dove c'è il cielo, e compiere anche un'ascensione. Allora, Harry De Luca, io ho voluto scegliere questo tema, il tema della scalata, dato che tu come ospite ci permetterai di affrontarlo da diverse prospettive. Però vorrei capire da te, che sei un grande scrittore, un cesellatore, no, proprio della parola, dammi un po', spiegami un po' questi tre termini che tante volte vengono utilizzati come sinonimi: arrampicata, scalata, ascensione. Con quale di queste tre parole hai più familiarità? E poi ce le spieghi come lo sai fare tu? Ma mi sembra che l'arrampicata sia precisamente su roccia, la scalata su qualunque superficie, cioè la scalata esiste sul ghiaccio, sulla neve, insomma è un termine più vasto. E io sono un praticante di arrampicata. Sì, mi piace scalare rocce, quindi avere un contatto fisico con le dita e delle mani, alle volte anche con i piedi, perché mi capita anche di scalare scalzo. E invece mi muovo meno a mio agio su un terreno in cui devo infilare i ramponi, devo andare con le piccozze, infilare i guanti, eccetera. Mi sembra di prendere stabilire una distanza da quella superficie che preferisco. E ascensione? Ascensione è una cosa che ha a che vedere invece con un significato un po' più spirituale. E quindi non mi riguarda, ecco, nel senso che io non sono un credente, e mentre salgo in montagna, mentre scalo, non sto avvicinandomi a niente. E in cima a una montagna il cielo è immensamente lontano lo stesso, è vuoto per me. È semplicemente la cima, il punto più lontano che ho raggiunto, la massima distanza che ho stabilito tra la mia partenza e quel vicolo cieco, perché la cima per me è un vicolo cieco, è un punto oltre il quale non si può procedere, bisogna materialmente ritornare indietro. Quindi ascensione è una cosa più spirituale, e capisco bene insomma che ci sono delle persone che salendo in cima a una montagna si sentono più vicini. Raggiungono una intimità, ma con qualcosa che avevano già da prima, insomma, non perché lì sono più vicini, ce l'avevano dentro e la stavano portando in alto. Sì. Allora, noi abbiamo lanciato una sfida ai nostri ascoltatori, abbiamo chiesto di raccontarci la scalata, l'arrampicata più faticosa della vita. 5 dei nostri ascoltatori riceveranno il libro di Henry De Luca, 2 copie al pubblico qui presente, 2 i racconti che ci stanno già arrivando su Facebook e via mail a esserebenessere@radio24.it e 1 per chi chiama in diretta al nostro numero verde attivo 800 24 0024. Naturalmente Henry, con queste copie gentilmente offerte dalla Feltrinelli, autograferà ogni copia. Quindi raccontateci la scalata di cui siete stati protagonisti, trovate anche dei foglietti, potete scrivere, annotare il vostro nome, fare un cenno, vi saranno raccolti e saranno letti. Lo stimolo è proprio: la scalata più impegnativa e importante della mia vita è stata quella in cui compilate e intervenite. Ma Henry, vogliamo già proprio con le tue parole entrare proprio nel tema e dare un aiutino, come si dice, ai nostri ascoltatori. Andiamo a sentire un breve estratto dell'incipit del tuo nuovo romanzo Edisse, appena pubblicato da Feltrinelli. Era allenato, rapido, il migliore a salire. Il piede umano è una macchina che vuole spingere in su. In lui la vocazione si era specializzata. Dalla pianta del piede era risalita al resto del corpo. Era diventato uno scalatore, unico nel suo tempo. Qualche volta si era perfino arrampicato scalzo. Scalava leggero. Il corpo rispondeva teso e schietto all'invito degli appigli. Il fiato se ne stava compresso nei polmoni e staccava sillabe di soffio seguendo il ritmo di una musica in testa. Il vento gli arruffava i capelli e sgomberava i pensieri. Con l'ultimo passo di salita toccava l'estremità dove la terra smette e inizia il cielo. Una cima raggiunta è il bordo di confine tra il finito e l'immenso. Lì arrivava alla massima distanza dal punto di partenza. Non è traguardo una cima, è sbarramento. Lì sperimentava la vertigine, che in lui non era il risucchio del vuoto verso il basso, ma affacciarsi sul vuoto dell'insù. Lì, sulla cima, percepiva la divinità che si accostava. Lassù si avvolgeva di vento, una sommità senza urto di masse d'aria addosso è spaventosa, perché l'immenso sta trattenendo il fiato. Mi piacerebbe molto essere un po' Henry De Luca, Sì. Un pezzettino di Henry De Luca ogni tanto, mi farebbe molto comodo. Senti, ma perché tu ti sei avvicinata alla montagna? Perché... Proprio da Napoli? Da Napoli, sì. Intanto perché per motivi di famiglia. Mio padre è stato durante la Seconda Guerra Mondiale alpino. Si è arruolato nel corpo degli alpini. Ci sono stati adesso a Torino gli alpini, l'altro fine settimana. Sì, mio padre non andava alle adunate, non è mai andato alle adunate. Non gli piaceva, era orgoglioso di aver fatto quella esperienza, però non aveva nessuno spirito di corpo. E mi ha portato, mi ha spinto, mi ha piazzato in montagna all'inizio della mia vita. E quindi insieme al mare, che è stata la gran parte della mia attività festiva da bambino, c'erano anche le montagne. E da adulto, verso i 30 anni, ci sono ritornato e li ho riconosciuti quei profili e mi è venuto il prurito alle mani e li ho voluti salire, cominciare a salire, e da allora non ho più smesso. Alberto, è una storia che vedo già che ti attira, perché c'è questa storia di Henry che viene accompagnato, iniziata alla montagna proprio da suo papà. Sì, credo che questo sia uno degli aspetti per cui la montagna ha di per sé straordinari valori anche nella relazione educativa con un figlio. Credo che avvicinare un figlio alla passione per la montagna, poi abbiamo sentito anche racconti di mare e di natura, sia una delle cose che noi mamma e papà possiamo in questo momento davvero presidiare, perché c'è dentro un valore più grande che quello della conservazione, oltre che della specie, del mondo. Ma riflettendo con te sulla preparazione di questa puntata e sapendo che abbiamo Enrico Camanni, che un uomo e la montagna sono la stessa cosa. È veramente un giornalista e un alpinista, ha vissuto sulla montagna e per la montagna. Osservando come i ragazzi vivono la montagna in questo momento, in molti casi è la ricerca di un'esperienza estrema, della sensazione più forte, ecco, e non tanto un'esplorazione, un avvicinamento rispettoso. Consideravo anche proprio la montagna in inverno. Mi ricordo che ai miei tempi era un'esperienza di sport, ma anche proprio di contatto con la natura. Adesso è velocità estrema. Cosa è cambiata? Cosa è cambiato? Che cosa sta succedendo nella relazione tra l'uomo e la montagna? È cambiato il mondo, secondo me, nel senso che una volta anche solo raggiungere la montagna era un'esperienza faticosa, anche lenta in qualche misura, e poi è diventata sempre più facile raggiungerla, e questo toglie delle barriere, toglie dei filtri. Io non generalizzerei sulle differenze generazionali, perché conosco tanti ragazzi che ancora vanno in montagna e lo fanno bene. Assolutamente sì. È chiaro che è più difficile, secondo me, più si va avanti con la tecnologia, più è difficile trovare un rapporto profondo con le cose, ma questo non vale solo in montagna. E quindi, secondo me, tutto quello che mi sentirei di dire sulla nuova generazione è che hanno più difficoltà di quella che avevamo noi, forse, a trovare certe sensazioni, certe emozioni. E di qui anche forse questa ricerca un po' spinta a volte, ma non generalizzerei, perché ci sono veramente tutte le strade possibili per arrivare su una cima. Senti Harry, quanto ti aiuta andare in montagna, salire in alto nella scrittura? Non direi niente. Sono due mondi separati, sì, o sì, ci sono delle... Andare in montagna, scalare, è una bella attività festiva del corpo. Non mi riguarda, insomma, non riguarda la scrittura. La scrittura per me è come camminare. Appoggio i piedi sopra quelle che sono le mie sillabe, su un sentiero che inauguro io e che spero che qualcuno ricalchi. Senti, e come scrivi? C'è un momento della giornata? O io sono sempre curiosa, quando poi apro un libro e leggo una pagina e dico chissà quando l'avrà scritta, era felice, era l'ha rifatta quattro volte questo passaggio, insomma anche la scrittura è un po' una scalata, no? Immagino che non venga tutta di getto o no? Dimmelo tu che sei tutte e due, io non sono né una scalatrice né una scrittrice. Ma sono affascinata da questi due mondi. Intanto per me scrivere è un tempo festivo, è sempre stato il contrario del tempo di lavoro. Il tempo di lavoro era la giornata venduta per salario, era la forza di lavoro venduta e svuotata dalla giornata, e invece quella scrittura si era messa a controspinta, con spirito di contraddizione, a voler giustificare quella mia giornata. Non andava tutta persa se poi rimaneva un pezzetto salvato, di tempo salvato in fondo alla giornata. Quindi la scrittura ha avuto per me questo valore aggiunto del tempo salvato della giornata, e perciò è stata felice la mia scrittura. Io scrivo su penna, sul quaderno, quaderno a righe, se no vanno storte le linee, mi servono le righe, e a quadretti no. Perché quadretti, so che ho letto in un'intervista che il quadretto non ti garba. Il quadretto somiglia alle sbarre, insomma. Io vengo dal secolo 1900, che è stato il più carcerario della storia dell'umanità. Mettere pure le parole dentro una griglia non mi piace, ecco. Evito i quaderni a quadretti. E poi, insomma, mi ricordano la matematica, andavo malissimo. Vedi, allora ho trovato una cosa che ho in comune con te, la matematica. 800 24 00 24, potete chiamarci, potete scriverci sul nostro profilo Facebook, via sms al 349 238 6666. Abbiamo Francesco che ci chiama da Milano. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì, la sentiamo Francesco. Niente, volevo raccontare a proposito della scalata che un po' mi ha cambiato la vita, mi ha fatto vedere le cose in modo diverso. Purtroppo è l'ultima scalata che ho fatto, è stata quasi 15 anni fa, ma volevo parlare di questa che ho fatto a 17 anni, quindi 20 anni fa, perché ho 37 anni. Sì. Con un mio amico andavamo sempre alla ricerca di reperti di guerra, perché eravamo appassionati, quindi andavamo, non so, su per Asiago, da quelle parti lì, perché io sono veneto, vivo a Milano ma sono veneto. E un giorno, andando in cerca di reperti, abbiamo scoperto una grotta. Allora tutti presi da questa situazione, ci siamo attrezzati con luci e cose varie e ci siamo inoltrati in questa grotta. Prego. Per quanti metri? Siamo andati dentro a questa grotta per circa 800 metri, no, cioè non in profondità, dentro. Era una caspita, grotta che... Harry, mica poco, 800 metri quanti piani sono di un palazzo? Una bella passeggiata. E Francesco, perché le ha cambiato questa? Perché intanto siamo stati dentro dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 10, perché era è molto lento il percorso in grotta. Mi dica in una parola che cosa... Provi a fare il ride Luca. Mi dica in due parole precise che cosa ha cambiato in lei questa esperienza, così sentiamo anche le parole degli altri nostri ascoltatori che vogliono parlare con Harry. Okay, grazie Francesco. Abbiamo trovato un fiore albino che non ci saremmo mai aspettati di trovare dentro una sala, isolato in mezzo a una roccia praticamente. Un fiore quasi nel cuore della terra. Grazie Francesco, buona giornata. Grazie per averci chiamato. Abbiamo numerosi ascoltatori e ascoltatori di Radio 24 che ci sono venuti a trovare, che ci hanno scritto la loro arrampicata più originale. Alberto, vuoi leggerne una? Ma ne scegliamo una che è molto in tema col salone, ce la scrive Gianni. Ho deciso di scrivere un libro, l'ho portato al salone del libro, ho trovato un editore e ora il libro è qui. E questa è stata una scalata, mi sembra arrivato in cima e ha un bel paesaggio da godere, Gianni. È una scalata riuscire a trovare l'editore, Harry, che ti pubblichi? No, non si trovano in alto, ma insomma si trovano abbastanza al piano terra, è più una scovata, ecco, è riuscito a scovare un editore. 800 24 00 24, restate con noi. Abbiamo Harry De Luca che si fermerà con noi sino a chiusura di puntata. Io vi ricordo anche, pensate, dal Salone del Libro di Torino, i nostri consigli quotidiani ogni giorno, i nostri esperti si danno da fare per suggerirci un modo, darci un'idea, per provare a stare meglio con noi stessi. Poi li farò leggere anche a Harry De Luca, perché voglio capire quale di questi gli piace di più. Andate quindi nel nostro laboratorio del benessere, il Daily Lab, ogni giorno, basta andare sul sito di Radio 24, www.radio24.it. Vi aspetto. Essere e benessere. Eccoci, siamo di nuovo insieme, siamo al Salone del Libro di Torino, oggi una puntata tutta dedicata ad una scalata che poi parliamo di montagne, ma anche delle difficoltà che riusciamo spesso a superare e che ci mette proprio di fronte la vita. 800 24 00 24, Harry De Luca, Enrico Camanni, giornalista e alpinista, Alberto Pellai che ci aiuta sul Côté più psicologico e sta raccogliendo i vostri scritti, ma intanto io voglio dare la parola a Roberto che ci chiama da Modena, perché non voglio trascurare neanche i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo. Roberto, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno, scusate il disturbo. Niente, sentivo parlare di scalate, io non ho mai fatto scalate diciamo reali e in montagna, però volevo dare un contributo su una scalata di tipo invece alla rinascita della vita. Io ho avuto grossissimi problemi già da 10 anni, io ho 64 anni, ho avuto un infarto, sono stato operato al cuore, ho avuto un tumore e ho avuto una scalata proprio verso di nuovo la felicità. Ho riscoperto la vita con fatica come una vera scalata in montagna, anche se ho fatto non scalate vere e proprie, ma viaggi e giti in montagna ne ho fatte perché io sono nato in montagna, quindi capisco benissimo la bellezza, certo, della scalata verso le vette. E per me è stata una scalata questa verso una vetta di riconquista della vita e della felicità. Harry, mi piacerebbe sentire un tuo commento a questa telefonata di Roberto che ci racconta di una scalata molto impegnativa, sicuramente quella di superare una malattia e riscoprire anche un nuovo gusto della vita. Rispondo a nome delle montagne. Sì. Allora, le montagne ringraziano per Roberto perché ha paragonato una salita su di loro alla sua ripresa della vita, al ritorno della volontà di vivere e della salute dentro. Quindi le montagne sono onorate della sua similitudine e ringrazio. Enrico, tu in montagna ti arrampichi, di montagna scrivi. La montagna è più limite per te, libertà, sfida? Direi una ricerca di libertà. perché è un mondo la montagna che ci permette di affrontarlo in tanti modi, dalla letteratura appunto, che è una sfida effettivamente diversa ma paragonabile a quell'altra, alla fatica che si fa andare in montagna. Una delle caratteristiche della montagna è la fatica, è in salita la montagna. E però direi che il concetto di sfida io lo trovo un po' superato, preferisco parlare di ricerca, è una ricerca. E mi piace anche questa ricerca attraverso tanti punti di vista, attraverso tanti chiavi, tanti approdi, perché non bisogna limitarla a una unica visione. Il bello appunto è che ognuno la pratica, la intende e la vive in un modo differente. Sì, è un po' artisti. Beh, senza... Con tutte le sicurezze del calcio. Cioè, senza forzare, però sia artisti ma sia anche sportivi, è inutile negarlo. Però anche lo sport ha una bellezza intrinseca straordinaria. Io non sono d'accordo a dire, non so, una volta c'era l'arte, una volta c'era la bellezza, adesso c'è solo più lo sport, l'atletismo. Non è vero, c'è tutto, c'era tutto, c'è tutto ancora. Cambiamo noi, ma la montagna è sempre quella. Volevo chiedere a Henry De Luca, Mosè in Edisse è uno scalatore davvero incredibile, sfrontato, affronta il rischio che nessuno mai avrebbe voluto affrontare quella mattina, ma intuiamo anche che ha un sacro rispetto della montagna, quindi sa entrarci ma sa anche, la conosce profondamente. Quanto la montagna è sfida? Quanto la montagna invece è rispetto del limite? Sfida a zero dal mio punto di vista. Ci si inoltra in un ambiente estraneo, ostile, in cui si è in inferiorità numerica e fisica di fronte alle forze di natura, e tutto quello che ti può succedere di buono è che con le tue capacità e con il lascia passare che la montagna ti concede pareggi la tua capacità con la difficoltà che hai scelto di affrontare. Quindi sfide io non ne, è una parola che non mi riguarda proprio, per quello che riguarda. E poi vedo che non ti piace neanche, perché intanto che la pronuncia arricci un po' il naso, hai detto sfida. Sfida. No. Le sfide si possono fare ad armi pari. Un uomo con una montagna non c'è storia. Non c'è proporzione, insomma. La montagna ti concede un lascia passare, e anche nelle condizioni migliori, una bellissima giornata di sole, perfetta eccetera, basta che ci sia un po' di vento in più e sei inchiodato dentro la tua stanzetta, la tua tendina, dentro il punto in cui ti trovi in parete eccetera. E quindi, certo, i giochi sono finiti. La montagna ti può revocare, lascia passare in ogni momento. Quindi sfide. Senti, vogliamo sentire, io vorrei, perché l'abbiamo fatto speakerare, sentire un breve insert del brano di Henry De Luca, lo ascoltiamo. E poi voglio chiederti una cosa su noi donne, arrampicarci, noi abbiamo degli zaini che secondo me sono più pesanti, non la contate giusta, sentiamo. Quando si sale dentro una condensa di vapore, si sta nel perfetto impasto di acqua e aria. C'è silenzio di grotta, vanno soffici i passi anche sulla breccia. Il respiro è per metà un sorso. La pelle scambia il sudore con l'acqua sospesa nel vapore. Scalare dentro una nuvola fa sentire il cielo come seconda pelle. Non si sta all'aperto, ma in una tenda immensa. Nella nuvola stava in un vestibolo che dava accesso al sole. In alto, la luce si infiltra insieme al vento fino all'uscita sotto il cielo sgombro. C'è una felicità nel guadagnarsi il sole passo a passo, aprirsi un varco per raggiungerlo. Il sole asciuga in fretta il corpo e i panni. Beh, Henry, io sono contenta quando tu scrivi un libro e me lo leggo e me lo gusto, ma io vorrei... so che tu l'hai fatto, parlare un po' delle scalate di noi donne, insomma, sì. Sembra un po' più difficile, abbiamo degli zaini più pesanti, insomma, vogliamo dire la tecnologia non ci aiuta? Non lo so, insomma, sembra più impegnativo, forse noi ci arrampichiamo in delle rocce più difficili. Non è così, anzi, in tutti gli sport che esistono l'arrampicata è lo sport in cui la differenza della massima prestazione maschile, della massima prestazione femminile è praticamente nulla, sono vicinissime le massime prestazioni, perché le donne hanno questo vantaggio nell'arrampicata, si intende arrampicata su roccia, hanno un ottimo rapporto tra la potenza e il peso e quindi sfruttano questa loro leggerezza e questa loro potenza in questo modo in maniera efficacissima, e poi hanno il vantaggio di avere le dita piccole, e le dita piccole riescono a utilizzare degli appigli che il genere maschile insomma non ci riesce proprio, insomma le deve, non riesce a sfruttarli. Scusa, a dovere. Tanto mi fai vedere un tuo dito, mettiamo un dito tuo e un dito mio a confronto. No, non c'è tanta differenza. Vabbè. Dunque è bellissimo il fatto che nell'arrampicata le donne e gli uomini stanno alla pari. No, dipende dallo zaino, se ti carichi uno zaino troppo pesante sei in difficoltà. Per esempio, insomma, io sono un buon conoscente di amico di Nives Meroy, rispetto alla sua capacità di stare a quelle altezze, di raggiungere quei traguardi, insomma, io sono Nives, che tu hai partecipato ad una spedizione sull'Himalaya hai raccontato tutto sulla traccia di Nives in un libro. Sì, ho raccontato le nostre conversazioni, perché per me parlare con lei, come in genere parlare con delle persone che mi interessano, mi fa assorbire quello che dicono. Io ricordo tutto quello che dicono e quindi non ho bisogno di prendere appunti. A distanza di tempo poi sono andato a ripescare queste nostre conversazioni e a riambientarle dentro quei posti in cui ti abbiamo attraversato. Infatti lei mi diceva: ma com'è che ti ricordi tutto quello che ho detto? Beh, perché io sono uno che sa, che ascolta. La mia specialità, non si direbbe adesso che sto chiacchierando, ma la mia specialità è quella di stare zitto. Harry, donne in montagna, donne nella vita invece? È più facile, più difficile? Nella vita, nella realizzazione di una donna. Tu mi hai portato le donne e abbiamo parlato di donne in montagna, grandi donne come Nives Meroy, e sulla roccia non ci sono differenze, sono uguali. Nella vita invece qualche fatica in più le donne la stanno ancora facendo o no? Dal punto di vista sociale sì, ma io sempre nei confronti di una donna che ho potuto avvicinare, con la quale sono stato in relazione, in intimità, mi sono trovato in inferiorità, con un sentimento di inferiorità, non fisica, ma insomma proprio di inferiorità di forza. Nessun uomo, almeno che io conosco, riesce a pareggiare la volontà di una donna. Una donna vuole con una costanza e una precisione che nessun uomo riesce a raggiungere. Dunque io sempre mi sono trovato in difficoltà, infelice difficoltà, insomma, in un sentimento di inferiorità nei confronti di una donna, quindi non sono tanto pratico delle difficoltà che affrontano poi nella società, perché fosse per me insomma governerebbero loro, ecco. 800 24 00 24 dal Salone del Libro di Torino, insieme a Harry De Luca andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e poi torniamo subito dopo insieme. Alberto Pellai ci leggerà alcuni dei vostri messaggi, ci sono delle copie autografate da Harry De Luca che arriveranno a casa ad alcuni di voi. A tra pochissimo. Essere e benessere. E Harry, dobbiamo mettere le cuffie, anche tu, anche Enrico Camanni, riprendiamo il collegamento, siamo di nuovo qui. Parlavamo di donne, Harry, cinque donne stanno nell'elenco maschile delle generazioni tra Abramo e Gesù, cinque casi unici. Strano, eh? Dentro la più preziosa delle genealogie, quella che è del Messia, Matteo, che mette tutti i nomi maschili, inserisce cinque nomi di donne, e tre di queste donne sono donne non ebree, proprio a intenzione del fatto che anche la più preziosa delle genealogie non ha il pedigree, è mista, è incrociata, è arricchita dalla diversità, dalla varietà degli incroci con altre stirpi, con altri sangui. E poi queste donne hanno una specialità, insomma, hanno con il loro corpo hanno applicato la legge in maniera nuova e hanno costretto la legge maschile a inchinarsi di fronte alla loro superiorità. c'è nella scrittura sacra una dichiarata intenzione di superiorità della donna nei confronti dell'uomo. Quando la divinità crea l'Adam, crea questo miscuglio tra la terra e il suo soffio, ma quando crea la donna dal fianco dell'Adam è scritto e costruì, cioè non la estrae bella e fatta da questo semilavorato che è l'Adam, ma ci mette la sua costruzione, la sua intenzione di perfezionamento. Quindi la donna fin dall'inizio, fin dalla sua marchio di fabbrica, è una evoluzione, un miglioramento, un perfezionamento di quel prodotto maschile da cui è estratta. Questo pezzettino me lo rimetto nella mia pagina di Essere Benessere, che così noi ascoltatrici e noi donne ogni tanto quando ci sentiamo, clic, lo andiamo a sentire. A proposito di consigli, secondo me questo tira su la nostra autostima. Alberto. Le donne hanno in realtà, e questo lo dice anche la ricerca, una competenza emotiva enormemente superiore a quella di noi uomini. E mi domando, rispetto a un'emozione che è la paura, che personalmente quando mi avvicino alla montagna sento forte e mi consente poi di potermici muovere con più rispetto e forse con più attenzione. È necessario avere paura della montagna per scalarla, oppure la paura è un'emozione che blocca la scalata? Enrico. La paura è indispensabile, perché senza paura noi ci uccidiamo in montagna. Come diceva Henry, la montagna è un luogo ostile, noi non siamo nati per la montagna, noi siamo animali da pianura, e quindi la paura è... O da mare, sì. Perché galleggiamo. Io no? Non tanto, ma... perché sei un po' montagnino. No, perché ognuno si familiarizza con le cose che conosce meglio. A me il mare piace moltissimo, però non mi sento in casa. Il problema è che la paura, cioè il problema, la virtù della paura è proprio quella, cioè darti una scossetta ogni tanto e dirti attento, tu non sei un uccello che vola, per esempio, non sei un'aquila, non sei un camoscio, sei un uomo o una donna, e quindi sei un essere che deve adattarsi a questo territorio. E in questo la paura però è anche terapeutica, nel senso che provare paura, secondo me, ci dà il senso del nostro limite. Io credo che uno dei problemi diffusi oggi sia proprio l'assenza di limite, questa difficoltà a trovare il limite, e la paura ci aiuta moltissimo in questo, cioè ci dice tu oltre a quello non ci puoi andare, e quindi o trovi una strada giusta per superare l'ostacolo oppure devi rinunciare, ma questo ci aiuta a crescere, credo. E una società che crede di essere illimitata è una società suicida, una società senza futuro, senza prospettiva, senza creatività soprattutto. Ma Mosè, se avesse avuto paura della salita, sarebbe arrivato a incontrare Dio oppure come no? Sarebbe andata? Ma la paura ha bisogno di essere precisata. Tu puoi speculare anche sulla paura dello straniero, ma poi quando incontri lo straniero, il singolo straniero, smetti di avere paura. Uno per uno, insomma, non ti fanno paura. E così è la paura in montagna. Non esiste la paura della montagna, esiste la paura di cosa? In questo momento stai attraversando un tratto friabile, stai attento a quel tratto friabile, hai paura e quindi sei più preciso in quel tratto friabile. In quel momento stai affrontando, invece stai andando lontano hai sbagliato strada, insomma, quindi hai sbagliato linea e quindi devi ritornare indietro, hai paura di avere sbagliato. Insomma, la paura va nominata. Paura di cosa? Il momento in cui tu specifichi la tua paura, la controlli, ci parli, insomma, e ne prendi le tue conseguenze, insomma, reagisci e il corpo si adatta. Quindi la paura va decantata in articoli, insomma. Paura di che? Hai paura dello straniero, ma perché? Perché ti entra, chi te l'ha insegnata questa paura dello straniero? Incontralo uno straniero, come ti capita di incontrarlo, e ti sembra che magari dici forse è meglio se io sto più attento a casa. Meglio. La paura di qualche parente, quello è possibile che insomma una fregatura, insomma un trabocchetto, una coltellata la prendi nella cucina di casa, insomma da qualche, da qualche intimo di famiglia. Allora io sto guardando il tempo, abbiamo Luigi da Reggio Calabria. Buongiorno, non lo sento, anzi c'è un eco, Luigi lo sentiamo, invece Alberto leggi tu che io sono accecata qualche messaggio che ci sta arrivando dal pubblico qua al Salone del Libro di Torino, tra cui sceglieremo ben due copie edisse di Henry De Luca che autograferà, mentre le altre le segnaleremo sul nostro sito perché la selezione è lunga, mi stanno avvertendo che sono arrivati tantissime mail. tantissimi commenti sul profilo Facebook, dateci tempo, ma oggi invece qui alle persone qua in carne e ossa daremo subito il libro di Henry De Luca. Ma ci sono molti racconti di scalata con se stesse, con i propri limiti. Leggo questa, la frase finale di una testimonianza: la mia scalata in corsa è la scalata con i miei limiti molto umani, a volte bestiali. C'è quest'altro racconto: sono stata seduta a fianco di mio padre che stava morendo e mi aggrappavo alla sua mano. Senza voltarmi indietro ascoltavo il mio affanno con il suo, guardavo in alto per scorgere la vetta, quella punta aguzza che mi trafiggeva gli occhi, e poi la dolce stanchezza della fine. Harry, sarà difficile scegliere tra i tanti contributi quelli che riceverà a casa il tuo libro, anzi qua e poi a casa, tra l'altro con dedica, e disse Feltrinelli gentilmente, voglio ricordare, ne ha messo a disposizione 5 copie. Io ne vorrei una tutta per me, con una dedica tutta speciale, perché io mi ricorderò di quello che ci hai detto tu oggi. Ho fatto come ho preso spunto da quello che hai detto tu, essere ottimi, dei buoni ascoltatori, no? A sentire. E noi ti sentiremo volentieri ancora, ma Giorgio De Luca, che tra l'altro è napoletano come te, era felice di averti, mi sta dicendo che devo salutarvi, allora fermatevi qui, perché tra le vostre tra i vostri messaggi sceglieremo due di voi per dare il libro di Henry De Luca. Io lo ringrazio per essere stato con noi, ringrazio Enrico Camanni, naturalmente Alberto Pellai, Radio 24 che ci ha dato questa bella opportunità. Buona giornata a tutti, Radio 24 continua qui dal Salone del Libro di Torino, non perdetevi i prossimi appuntamenti, faccio promozione anche per i colleghi, buona giornata. Essere e benessere.